Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Cupa notte di novembre che vidi il coronamento delle mie fatiche. Con un'ansia che assomigliava all'angoscia, raccolsi attorno a me gli strumenti atti a infondere la scintilla di vita nell'essere inanimato che giaceva ai miei piedi. Era già l'una del mattino. La pioggia batteva a sinistra sui vetri e la candela avrebbe presto dato i suoi ultimi guizzi quando alla luce che stava per spegnersi vidi aprirsi i foschi occhi gialli della creatura. Un ansito e un moto convulso le agitarono le membra. Come descrivere le mie emozioni dinanzi a questa catastrofe? O come dare un'idea dell'infelice che con cura e pene infinite mi ero sforzato di creare? Le sue membra erano proporzionate e avevo scelto i suoi lineamenti in modo che risultassero belli. Gran Dio, la sua pelle giallastra copriva a malapena la trama sottostante dei muscoli e delle arterie, i suoi capelli erano folti e di un nero lucente, i suoi denti di un bianco perlaceo, ma questi pregi non facevano che rendere più orribile il contrasto con gli occhi acquosi, che apparivano quasi dello stesso colore delle orbite biancastre in cui erano collocati, con la pelle grinzosa e le labbra nere e tirate. I casi della vita non sono così mutevoli come i sentimenti della natura umana. Avevo lavorato duramente per quasi 2 anni al solo scopo di infondere la vita a un corpo inanimato. Per questo mi ero negato riposo e salute. Lo avevo desiderato con un ardore che andava ben oltre la moderazione, ma ora che avevo finito, la bellezza del sogno svaniva e il mio cuore si riempì di orrore e di un disgusto indicibile, incapace di sopportare la vista dell'essere che avevo creato. Mi precipitai fuori dalla stanza e camminai a lungo su e giù per la mia camera da letto, incapace di prendere sonno. Alla fine la stanchezza subentrò al tumulto che prima mi aveva scosso e mi gettai sul letto, vestito come ero, sforzandomi di trovare qualche istante d'oblio. Invano. Dormii, sì, ma il mio sonno fu disturbato dagli incubi più spaventosi. Credetti di vedere Elizabeth, che nel fiore della salute passeggiava per le strade di Ingolstadt. Felice e sorpreso la abbracciavo, ma le sue labbra, che le sfioravo nel primo bacio, assumevano il pallore livido della morte. I suoi lineamenti mutavano, ed ecco che io stringevo fra le braccia il cadavere di mia madre. Un sudario ne ricopriva le forme, e io potevo vedere i vermi brulicare tra le pieghe della stoffa. Mi svegliai di soprassalto, inorridito. Un sudore gelido mi copriva la fronte, i denti mi battevano, tremavo, convulso in tutte le membra. Poi, al chiarore incerto e giallo della luna che filtrava attraverso le imposte, mi vidi davanti lo sciagurato, il miserabile mostro che io avevo creato. Teneva sollevate le cortine del letto e i suoi occhi, se occhi si possono chiamare, erano fissi su di me. Dischiuse Le mascelle mormorò qualche suono inarticolato, mentre un ghigno gli contraeva le guance. Forse parlò, ma io non lo sentii. Aveva una mano tesa in avanti, forse per trattenermi, ma fuggii e mi precipitai giù per le scale, mi rifugiai nel cortile della casa dove abitavo e lì rimasi per il resto della notte camminando su e giù in preda alla più grande agitazione, tendendo l'orecchio e sussultando di paura a ogni rumore, quasi esso mi annunciasse l'avvicinarsi del demoniaco cadavere al quale così follemente avevo dato la vita. Nessun mortale avrebbe potuto reggere all'orrore di quel volto. Una mummia ritornata a vita non avrebbe potuto essere più spaventosa. Passai una notte orribile. In certi momenti il mio polso batteva così rapido e forte che sentivo palpitare ogni arteria. In altri momenti quasi mi accasciavo a terra per il languore e l'estrema debolezza. Assieme all'orrore avvertivo l'amarezza della delusione, i sogni che per tanto tempo erano stati il mio cibo e il mio conforto, erano diventati per me un inferno, e il mutamento era stato così repentino, la sconfitta così completa. Giunse alla fine il mattino, triste e piovoso, e rivelò ai miei occhi insonni e dolenti la chiesa di Ingolstadt con il suo campanile bianco e l'orologio che segnava le 6. Il custode aprì i cancelli del cortile che era stato il mio asilo notturno, e io uscii nelle strade e le percorsi a passi rapidi quasi a sfuggire il mostro, che a ogni angolo temevo si presentasse al mio sguardo. Non osavo ritornare nel mio appartamento, ma mi sentivo sospinto innanzi, anche se ero fradicio per la pioggia che cadeva da un cielo nero e ostile. Camminai così per qualche tempo, nel tentativo di alleviare con la fatica materiale il peso che gravava sulla mia anima, vagai per le strade senza sapere con precisione dove fossi né che cosa facessi. Il mio cuore palpitava sconvolto dalla paura e io mi affrettavo con passi irregolari senza osare guardarmi intorno. Somigliavo a uno che su una via deserta cammina in preda al terrore e che, giratosi una volta a guardare, procede senza più voltarsi, sapendo d'avere alle calcagna un terribile nemico. Continuando così, giunsi alla fine dinanzi alla locanda dove si fermavano di solito diligenze e carri. Lì mi fermai, non so perché, e rimasi per qualche minuto con gli occhi fissi a una vettura che avanzava alla mia volta dall'altra estremità della strada. Come fu vicina, vidi che si trattava della diligenza svizzera. Si fermò proprio dove mi trovavo e non appena lo sportello si aprì, ecco Henri Clerval, che scorgendomi si affrettò a scendere. «Mio caro Frankenstein», esclamò, «come sono lieto di vederti. Un caso davvero fortunato che tu fossi qui proprio nel momento del mio arrivo». Nulla avrebbe potuto rallegrarmi di più della vista di Clerval. La sua presenza mi richiamò alla mente mio padre, Elisabeth e tutte quelle scene familiari così care al mio ricordo. Gli strinsi la mano e in un momento dimenticai il mio orrore e la mia sciagura. Improvvisamente, per la prima volta dopo molti mesi, provai una gioia calma e serena. Salutai dunque il mio amico nel modo più cordiale ed assieme ci dirigemmo verso la mia pensione. Clerval continuò a parlare per qualche tempo dei nostri amici comuni e della fortuna che aveva avuto ottenendo il permesso di venire a Ingolstadt. «Puoi facilmente immaginare», disse, «quanto sia stato difficile persuadere mio padre che tutto ciò che è necessario sapere non si esaurisce nella nobile arte della contabilità, anzi. Credo che sia rimasto incerto fino alla fine perché la sua eterna risposta alle mie instancabili richieste era quella del maestro di scuola olandese nel vicario di Wakefield. Ho 10.000 fiorini all'anno senza sapere il greco, e anche senza sapere il greco mangio di gusto. Ma l'affetto che nutre per me ha avuto alla fine la meglio sulla sua avversione per lo studio e mi ha permesso di intraprendere una spedizione alla scoperta del regno del sapere. Sapessi come sono felice di vederti. Harry, ma dimmi, come hai lasciato mio padre, i miei fratelli e Elizabeth? In ottima salute e lietissimi, solo un poco inquieti per le scarse notizie che ricevono da te. A proposito, ho intenzione di farti io stesso una romanzina in merito, mio caro Frankenstein, continuò, fermandosi improvvisamente e fissandomi in viso. Non mi ero accorto prima che tu avessi un aspetto tanto stanco, sei magro e pallido come se avessi vegliato per molte notti. La tua supposizione è esatta. In questi ultimi tempi sono stato assorbito da una certa occupazione al punto che, come vedi, non ho potuto concedermi riposo sufficiente. Ma ora spero sinceramente di aver terminato il mio lavoro e di essere finalmente libero. Ero tutto un tremito. Non potevo sopportare di pensare, e tanto meno di alludere, agli avvenimenti della notte precedente. Camminavo a passo rapido e arrivammo presto alla mia pensione. Allora riflettei, e l'idea che la creatura che avevo lasciato nella mia camera potesse essere ancora là, viva, a vagare per le stanze, mi fece rabbrividire. Io temevo di vedere quel mostro, ma temevo ancor più che potesse vederlo Harry. Dopo averlo pregato quindi di aspettare qualche minuto in fondo alle scale, mi precipitai verso la mia stanza. Prima che me ne rendessi conto, avevo già la mano sulla maniglia della porta. Allora mi arrestai e un freddo brivido mi corse per le ossa. Spalancai con violenza la porta, come fanno i bambini quando si immaginano che uno spettro li attenda dall'altra parte, ma nulla apparve. Entrai con passo incerto. L'appartamento era vuoto e neppure nella mia stanza da letto vi era traccia dell'ospite terribile. Stentavo a credere che mi fosse toccata una così grande fortuna, ma quando fui ben sicuro che il mio nemico era davvero fuggito, battei le mani per la gioia e corsi giù da Clerval. Salimmo nella mia stanza e poco dopo il domestico ci portò la colazione, ma non riuscivo a controllarmi. Non era soltanto la gioia a invadermi. Io sentivo i miei nervi fremere per eccesso di sensibilità e il polso battermi rapido. Ero incapace di stare fermo anche solo un istante. Balzavo sulle sedie, battevo le mani e ridevo fragorosamente. Clerval attribuì sulle prime il mio insolito stato d'animo alla gioia per il suo arrivo, ma quando mi osservò più attentamente, notò nei miei occhi un'espressione folle che non poteva spiegarsi, e le mie risa fragorose, sfrenate, senza allegria, lo spaventarono e sbalordirono. «Mio caro Victor!» esclamò. «Che cosa c'è, in nome di Dio? Non ridere a quel modo, sei terribilmente sconvolto. Qual è la causa di tutto ciò?» «Non chiedermelo!» gridai portandomi le mani sugli occhi, perché mi pareva di vedere lo spaventoso spettro scivolare nella stanza. «Te lo può dire? Lui! Oh, salvami, salvami!» Ebbi l'impressione che il mostro mi afferrasse e mi dibattei furiosamente e caddi svenuto. Povero Clerval! Quali devono essere stati i suoi sentimenti? Un incontro che aveva atteso con tanta gioia si tramutava così stranamente in qualche cosa di amaro. Ma non fui testimone del suo dolore, perché ero privo di sensi e non li ripresi per molto, molto tempo. Fu questo l'inizio di una febbre nervosa che mi costrinse a letto per diversi mesi. Durante tutto questo tempo Harry fu il mio solo infermiere. Seppi poi che, conoscendo l'età avanzata di mio padre e l'impossibilità da parte sua di affrontare un viaggio così lungo, e sapendo pure quanto avrebbe addolorato Elizabeth la mia malattia. Egli risparmiò loro questo cruccio, tenendo celata la gravità del mio disturbo. Sapeva che non avrei potuto trovare infermiere più gentile e attento di lui, e saldo nella speranza di una mia guarigione, non dubitò di compiere nei loro riguardi non una mala azione, ma un atto di bontà. Ma io ero davvero molto ammalato, e certo nulla avrebbe potuto restituirmi alla vita meglio delle premure commoventi e instancabili del mio amico. Sempre avevo davanti agli occhi la figura del mostro cui avevo dato l'esistenza, e incessantemente vaneggiavo su di lui. Senza dubbio le mie parole sorpresero Henri. Sulle prime le credette divagazioni della mia mente turbata, ma la pertinacia con cui tornavo di continuo sullo stesso argomento lo persuase che il mio disturbo doveva la sua origine a qualche evento strano e terribile. A poco e con frequenti ricadute che allarmavano e addoloravano il mio amico, mi ripresi. Ricordo come la prima volta che mi riuscì di osservare oggetti intorno a me con qualche piacere, notai che le foglie morte erano sparite e che giovani gemme stavano sbocciando sugli alberi che ombreggiavano la mia finestra. Fu una primavera divina e la stagione contribuì molto alla mia convalescenza. Sentii rinascere dentro di me sentimenti di gioia e di affetto. La tristezza scomparve e in breve ritrovai l'allegria che avevo conosciuto prima di essere colto dalla mia fatale passione. «Carissimo Clerval», esclamai, «quanto sei stato gentile e buono con me, invece di studiare come ti eri ripromesso, hai trascorso tutto questo inverno al mio capezzale, io come potrò mai ripagarti? Provo un grandissimo rimorso per la delusione di cui sono stato causa, ma tu mi perdonerai. Mi ripagherai completamente se ti manterrai calmo e guarirai al più presto. E dato che appari in così buone condizioni di spirito, posso parlarti di un certo argomento». Tremai. Un certo argomento? Che cosa poteva essere? Voleva forse alludere a una cosa a cui non osavo nemmeno pensare. «Calmati», disse Clerval, il quale si era accorto come io avessi mutato colore. «Non ne parlerò se ti agiti, ma tuo padre e tua cugina sarebbero felici se ricevessero una lettera di tuo pugno. Non sanno quanto tu sia stato malato e il tuo lungo silenzio li rende inquieti». «Ah, si tratta solo di questo, mio caro Henri? E come hai potuto supporre che il mio primo pensiero non sarebbe volato verso quei cari, carissimi amici che amo e che sono così degni del mio amore?» «Se tale è il tuo stato d'animo, amico mio, sarei forse lieto di vedere una lettera che ti aspetta da diversi giorni. È di tua cugina, credo».